9 in punto, la versione di Oscar. Ed eccoci in questo 24, vigilia di Natale, San Delfino, a parlare di un tema che forse ad alcuni penserete non è molto prenatalizio, però eravamo rimasti che ieri ci doveva essere un'importante direzione del Partito Democratico, un'importante direzione perché sapete che il leader Bersani, spiazzando molti una settimana prima, ha formalizzato l'offerta di alleanza al terzo polo, a Ferdinando Casini, a Fini. In questo ha l'appoggio di Massimo D'Alema, è evidente che così, anzi Massimo D'Alema è stato uno dei pedalatori di lungo corso di questa scelta, nella convinzione che solo con un'alleanza esplicita, che in parole povere sottintende, adesso non vorrei dirlo, anche ma che insomma, il Premier poi ha espresso per vincere da un moderato, naturalmente ha spiazzato molti. Sapete benissimo che Nichi Vendola corre esplicitamente per un'ipotesi di alleanza diversa, propone un'alleanza diversa e propone anche attraverso il meccanismo delle prepare un'ipotesi diversa di leadership probabilmente all'alleanza. Sapete bene che nel PD ci sono fermenti e proposte diverse, c'è un'anima cattolica all'interno del PD un po' in sofferenza, Fioroni, che guarda naturalmente con speranza e, a questa proposta nuova di Bersani. C'è una parte del partito che si è riconosciuta nell'esperienza di richiesta di rinnovamento della leadership, di essere più in onda con i temi di una governabilità fatta sui problemi della gente, per esempio il sindaco di Firenze Renzi e quelli che sono stati chiamati nella nostra orrenda semplificazione giornalistica i rottamatori. C'è chi, concludo con questo esempio, ma potrei citarne tanti altri, il sindaco della mia Torino, Chiamparino, che per esempio ieri, di fronte all'accordo di Mirafiori, che è un accordo, datemi retta, storico, più di Pomigliano, storico, e bisognerà vedere come finirà questo referendum e bisognerà sperare che il referendum non venga intossicato da un eccesso di polemica, io me l'aspetto da molti media intellettuali eccetera eccetera, però Chiamparino per esempio, sindaco di Torino al PD, ha il fegato di dire questo accordo avrà dei difetti eccetera, ma io lo considero positivamente. Ovviamente è questo giudizio molto diverso dal no assoluto su tutta la linea contrario espresso non solo dalla FIOM ma da tutta la CGIL e da tanti esponenti del PD, è un altro giudizio di quelli divisivi. Allora, noi avevamo deciso di fare la puntata di oggi esattamente sui problemi del PD, delle alleanze, di che anime, di che cosa immaginare di proporre al suo elettorato, ma a tutta l'Italia, per un post-berlusconismo che, bene o male, un giorno ci sarà, no? Voi che dite? E prima di presentare gli ospiti, vi ricordo di leggere a pagina 13 su Repubblica di oggi l'aggiornamento del sondaggio che Repubblica aggiorna di volta in volta, quello, il sondaggio Demos su le opinioni, il gradimento dei leader della politica nel nostro paese. Perché? Perché c'è, al di là della conferma di una situazione del Polo di Libertà al 28,6% attualmente, della Lega Nord all'11,6% e di un Partito Democratico che non se ne avvantaggia perché resta al 25,1% con l'Italia dei Valori al 6%, ricordo che il Partito Democratico ha le politiche del 2008 ha preso il 33,2% per capirci. Al di là di questo però c'è anche una richiesta di opinione sulle alleanze del centrosinistra e in questo sondaggio di Demos, trovate Repubblica pagina 13, insomma non è che l'alleanza indicata da Bersani sembra molto popolare, perché dice il sondaggio che l'ipotesi di un'alleanza di centro con esclusione quindi della sinistra radicale viene giudicata positivamente solo dal 10,9% tra gli elettori del centrosinistra e positivamente dal 13,7% tra gli elettori del PD, mentre invece un'alleanza di sinistra con esclusione dei partiti di centro, il sondaggio dice, verrebbe giudicata positivamente dal 31,8% degli elettori del centrosinistra e dal 27,7% degli elettori del PD, quindi rispetto all'ipotesi del centrismo, dell'alleanza col centrismo è una percentuale più che doppia per capirci. Poi c'è la terza richiesta che viene fatta nel sondaggio e cioè siete voi favorevoli al listone, diciamo, CLN, come lo vogliamo chiamare? Dico CLN perché Franceschini ha detto bisogna fare come i partigiani, secondo me molto discutibile, però insomma è nota la famiglia partigiana di Franceschini. Oppure la grande lista nazionale di cui in qualche misura si sente parlare da Montezemolo. Attenti che Montezemolo in questo sondaggio gode della maggior fiducia tra tutti, il 53%, ve lo segnalo. È stata chiesta comunque nel sondaggio anche l'ipotesi ampio fronte anti-berlusconiano, e l'ampio fronte anti-berlusconiano seduce il 56,2% tanto degli elettori del centro-sinistra quanto il 56,9% degli elettori del PD, cioè tutti uniti come la lista CLN. Ecco, però il sondaggio di oggi ci dice queste cose. Allora, sentiamo come Bersani, poiché la direzione ieri non c'è stata, ha spiegato nel suo file sull'alleanza costituente, nella conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio insieme all'onorevole Bindi, un pochino il senso in sintesi della sua proposta. Io arrivo al punto di dire che se non ci fosse Berlusconi di mezzo, i problemi di sto paese sarebbero quelli di una fase veramente costituente, che guardasse perfino oltre, è il fatto che c'è Berlusconi e quel centrodestra. E quindi io chiedo che le forze di centrosinistra e di centro, se intendono collocarsi al centro, perché poi mi si dice, vediamo, se intendono collocarsi al centro, io dico a queste forze, vogliamo fare una Repubblica europea funzionante o vogliamo andare avanti su quel modello lì? Adesso dico, attenzione a questa esigenza, andare oltre il berlusconismo vuol dire riformare questa Repubblica, fare un po' di riforme e fare un po' di roba seria, e questo pretende una attitudine di tipo costituente, che quindi può anche non essere, diciamo, il patto politico, no? Nel quale tu metti in gioco l'anima, è il patto politico in cui tu metti in gioco la preoccupazione per il paese. Questo io dico al terzo polo, come lo dico alle forze di centrosinistra, ripeto, non in astratto, ma sulla base di una serie di cose che gli spiegheremo, che gli diremo abbastanza precisamente. Ecco, le parole di Bersani sono una proposta politica, quella al centro, che non mette in questione la nostra anima, però è una necessità, insomma, per vincere, per andare oltre Berlusconi, per l'emergenza anti-berlusconiana. Sentiamo come la pensa su questi spunti e come la pensano in realtà su questa PD e l'ipotesi di centrosinistra, che malgrado la discesa di Berlusconi nei sondaggi non se ne avvantaggia troppo. Gli ospiti che abbiamo con noi in questa prima parte della trasmissione sono il professor Gianfranco Pasquino. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Baldo Spini, politico, insomma, è stato politico di lungo corso, è stato ministro, ambiente, gli esteri, presidente della commissione difesa, dovunque ha lasciato un segno di trasparenza, anche uno che si è battuto quando era socialista anticraxiano, e me lo ricordo bene perché io ero anticraxiano in un altro partito all'epoca, il PRI, per la trasparenza e la moralità della politica. Oggi lui è in consiglio comunale a Firenze con una lista che ha presentato e che in realtà ha guardato a un'ipotesi diversa da quella del centro, la sinistra ecologista, ha preso tanti bei voti, ha preso un 9% se non mi ricordo male, ha scritto un libro 20 anni dopo la Bolognina per Rubettino Editore, che sta presentando in Italia, dove trovate una sintesi del suo punto di vista un po' tagliente, insomma, dalla Bolognina a oggi. Spini, come la pensa di questa proposta Bersani? Ma io penso questo, che oggi ho cercato di scrivere un libro di politica, in questo momento tutti scrivono libri esistenziali sulle loro passioni, sui loro problemi, io ho scritto un libro di rigorosa politica, perché la sinistra si faccia un esame di coscienza del perché nella Seconda Repubblica protagonista è stato Berlusconi e non la sinistra stessa. Alla luce di questa analisi storica credo che ci siano anche delle utili indicazioni per il presente, e cioè non anteporre tatticismi e continue mutazioni di svolte, alleanze, formule e, diciamo così, nomi e quant'altro, al problema vero, cioè di far percepire agli italiani che c'è una sinistra riformista rigorosa in grado di affrontare i problemi del paese. Da questo punto di vista, Bersani, mi sento di dire questo: se ad una offensiva per un'alleanza non si accoppia, non si unisce una costituente che rilanci il PD stesso, che lo riconcili con le correnti che sono di carattere, come può essere la mia, rosselliana, socialista liberale, comunque laiche e comunque capaci di guardare a sinistra, allora credo che nuovamente la vita del PD si involverà in un dibattito interno, mentre invece dovrebbe fare un'altra cosa, cioè aprirsi con coraggio ad una costituente, guardare agli errori con cui il PD è nato e riaprire con forza un dibattito con l'area elettorale che gli è propria. Che lei dice, insomma, è più quella di sinistra che quella di centro. Certamente l'area elettorale del PD è questo, tant'è vero che il successo del 2008 è un successo ottenuto prosciugando la sinistra, non sfondando al centro. Con questo, naturalmente, se il sistema elettorale rimane quello che è, non si deve negare assolutamente la possibilità di alleanze. Il problema è che queste alleanze siano motivate nel giorno per giorno. Se in Parlamento si vota distinti, come si è votato sulla Gelmini o quant'altro, mi sembra non facile mettere insieme un'alleanza convincente. Il secondo aspetto è quello che dicevo, non esime il Partito Democratico dal compiere un'operazione di apertura coraggiosa che lo possa riportare a percentuali più consone a quelle che è sempre state quelle della sinistra italiana. Io prego naturalmente per il nostro interlocutore di tenere presente anche altre corde del problema che non ho citato, cioè alleanza persistente o negata con Di Pietro, l'Italia dei Valori, che grazie alla scelta che fece Veltroni superò il quorum ed è diventato un signor protagonista poi un po' ingombrante a volte del dibattito pubblico e anche come alleato del PD. Quale peso e importanza dare alla posizione di Veltroni e di coloro che ancora si riconoscono le sue posizioni, che dicono no, voi non potete abdicare alla vocazione maggioritaria del PD, non ci avete insistito abbastanza bene, e tornare invece a voler fare i socialdemocratici tradizionali che si alleano con i cattolici e li delegano poi a governare sempre loro. Gianfranco, i socialdemocratici tradizionali non delegano i cattolici a governare. Aspetti, però nell'Italia della consociativa funzionava così, certo. Lei ha perfettamente ragione, nella grande famiglia europea ci sono due grandi famiglie politiche, sono alternative, sono quelle cristiano-sociali da una parte e quelle socialiste dall'altra. Purtroppo è stata la normalità che non siamo mai riusciti a costruire. Gianfranco Pasquino, dovesse dare un giudizio innanzitutto partendo da Bersani e dallo stato attuale del PD, che direbbe? Ma Bersani non è ancora riuscito a entrare in pieno controllo del partito, il partito gli sfugge da tutte le parti, ci sono dei leaders che continuano a fare il bello e il cattivo tempo, più spesso che noi il tempo è molto cattivo. Quindi è D'Alema dietro questa proposta, lei dice? C'è D'Alema, ma c'è anche Veltroni, cioè quello che dice Veltroni è in rotta di collisione con la strategia di Bersani. È vero che Veltroni è arrivato molto in alto con il consenso elettorale, però ha ragione Spini, prosciugando la sinistra. La sinistra bisogna cercare di convincerla, certamente anche a rappresentarla. Troppo spesso parliamo di leadership e non parliamo di elettorato, cioè bisogna raggiungere quell'elettorato. Se poi bisogna passare attraverso la capacità, al limite anche populista, di alcune leaders di quella sinistra, e allora ben venga. Però quello è il bacino elettorale, a quel bacino bisogna rivolgersi. Dopodiché, se si vuole anche governare, bisogna certamente sapere costruire delle alleanze. Un partito che sia intorno al 30% dei voti può dettare la linea di quelle alleanze, può avere l'iniziativa. Un partito intorno al 25% comincia a essere meno credibile e soprattutto diventa poco credibile quando queste alleanze sono alleanze, come si dice, a tutto campo, perché abbiamo già visto questo. Può anche essere che la legge elettorale renda indispensabili queste alleanze, però poi il governo è un governo fatto da una coalizione assolutamente eterogenea e che rischia di crollare ad ogni passaggio importante. Anche su questa ragione Valdo Spini, cioè basta vedere come hanno votato ieri in Parlamento sulla legge Gelmini in tre modi diversi, e a questo punto l'elettore può legittimamente chiedersi chi rappresenterebbe le sue preferenze nel momento in cui si sparpagliano su linee diverse. Io temo che il partito non abbia ancora in realtà deciso che esattamente che cosa fare, e lo potrebbe fare soltanto se davvero incominciasse a consultare i suoi elettori e i suoi potenziali elettori, cioè a fare politica, perché la politica non è quella che si svolge necessariamente nelle direzioni del partito, dovrebbe svolgersi sul territorio, a contatto con quelle persone che la pensano anche diversamente, ma che non hanno nessuna intenzione di sostenere un altro governo guidato da Berlusconi. Tutto questo è andato perso, la affrettata decisione di fare un partito democratico ha in realtà reso il partito molto più debole organizzativamente e di conseguenza anche politicamente. Pasquino, quando lei dice non bisogna commettere errore di non prestare orecchio a chi è impegnato sul territorio eccetera, lei intende qualche cosa che va nella direzione, per capire meglio, per far capire chi ascolta, di la proposta Vendola, la proposta del sindaco di Firenze, la proposta di chi al nord in questi anni ha tentato di spiegare, è capitato sia in Piemonte con Chiamparino, sia in Lombardia, sia in Veneto con l'esperienza Cacciari, di dire guardate che o ci diamo una forma organizzativa e di proposta politica un po' autonoma anche qua al nord oppure continueremo a perdere. In quale senso lei dice prestare orecchio? Ma visto che siamo nei paesi di Natale farò l'ecumenico. Prestare orecchio a tutte e tre le posizioni, Vendola, Renzi e Chiamparino, sapendo che rappresentano tre realtà diverse, ma assolutamente non incompatibili, anzi perfettamente conciliabili. Cioè, credo che sia un decennio circa che qualcuno nei pressi di quello che fu a suo tempo il Partito Democratico della Sinistra dice che bisogna organizzarsi al nord. Sembrò addirittura che avessero fatto un ufficio al nord a Milano per capire che cosa succede. È drammatico pensare che tutto questo si capisca attraverso un ufficio, però è indubbio che Chiamparino ha ragione, cioè se si vuole tornare a vincere a livello nazionale bisogna che il Partito Democratico sia in grado di rappresentare molto meglio il nord, e forse Chiamparino ha quelle capacità. Se si vuole avere una presenza vera per quello che riguarda gli elettori di sinistra, è chiaro che Vendola ha una sua capacità di attrarre quel tipo di elettorato, l'ha dimostrato due volte in Puglia, lo dimostra anche andando in giro per il tipo di pubblico che attrae. E soprattutto se si vuole un rinnovamento bisogna indubbiamente prestare attenzione a quello che dice Renzi. Quando un ragazzo, un uomo, un adolescente di 35 anni vince in una città come Firenze, nonostante, e qui mi permetto di scherzare, l'opposizione di Valdospini, vuol dire che ha delle capacità e comunque ha delle idee, dopodiché vediamo, ma il rinnovamento deve esserci, cioè non è possibile che siano al vertice del partito oggi coloro che c'erano già 20 anni fa. Ora, Vendola, che io conosco da quando eravamo dirigenti delle diverse federazioni giuridiche, la mia opinione è che ha una chiave popolare un po' rock per interpretare quello che c'è in una parte, al di là delle ascrizioni, agnizioni e iscrizioni dirette alle famiglie politiche del centro-sinistra. È una specie, io dico sempre, di Gramsci innestato sulla capacità di Padre Pio, ecco, questo è almeno così mi sembra che lui appaia, ed è una chiave singolare di auto cortocircuito di tanti luoghi comuni della maniera di rappresentare e pensare la sinistra antagonista. Questa è la mia sensazione conoscendolo da tanti anni. Non voglio dire che sono d'accordo, non si fatica a immaginare che lo Scagioni non è d'accordo con lui su tante cose, però contemporaneamente non è la sinistra della Rifondazione di Ferrero, ecco, questo vorrei bisogna testimoniarlo conoscendolo, e quindi da questo punto di vista devo dire che anche a me perprime un po', da cosa da dire, di mettersi in ginocchio con tutto il rispetto di fronte a Casini, mi sembra una maniera semplicemente per regalare a Casini dei buoni argomenti per patteggiare meglio la strada che mi sembra quella a cui la Chiesa, il suo elettorato, Berlusconi eccetera eccetera lo invitano, che forse è un po' più naturale per lui. Sbaglierò, ma io la penso così, non vorrei deludere l'onorevole Follini. Sentiamo ieri come Bersani ha illustrato in una conferenza stampa la stagione delle riforme che dovrebbe aspettare l'Italia. Non possiamo lasciarci più addormentare, abbiamo bisogno di un elemento di riscossa. Questo è il senso della cosa che vogliamo fare nell'anno nuovo, cioè cambiare agenda e parlare finalmente dell'Italia, perché qui si parla di tutto fuorché dell'Italia e degli italiani. Guardare in faccia il problema, come più grande forza dell'opposizione, costruire una piattaforma che sia all'altezza dei problemi che abbiamo, che sono di riforma repubblicana e di grande alleanza per la crescita e per il lavoro. Riforma repubblicana vuol dire insediare, riformare, rafforzare una democrazia costituzionale che abbia le radici in Europa, che non pensi che affidandosi a una sola persona si risolvono i problemi. E quindi riforme istituzionali, riforme elettorali, costi della politica, legalità, giustizia per i cittadini. Una agenda di riforme impegnative e profonde. Una stagione di riforme. In nome di questo noi lanciamo il messaggio politico. Noi, massima forza dell'opposizione, diciamo adesso presentiamo una piattaforma e ci rivolgiamo a tutte le forze dell'opposizione e a tutte le forze sociali. Va bene, nella conferenza stampa devo dire che se io fossi presente avrei chiesto a una persona di essere più preciso, perché un lungo elenco, stagione di riforme, ci rivolgiamo a tutti, d'accordo. Sentiamoci una telefonata, Marco da Roma che ci chiama, sentiamo qual è la sua prima riflessione su questa prima parte della nostra trasmissione. Prego Marco. Buongiorno. Dica. Io rifletto da un po' di tempo su un argomento. Non è possibile per caso che la società sia talmente cambiata che tutto sommato bisognerebbe mettere in discussione la logica partitica? Cioè mi sembra che da alcune cose che accadono si vota Renzi, si vota Gota, si vota Berlusconi. Le persone, lei dice. Esatto, quindi non è magari che continuiamo ad analizzare la nostra società, il nostro movimento politico, senza guardare che il mondo è totalmente cambiato e quindi la logica partitica forse non esiste più. Non è che forse la grande vittoria di Berlusconi è che c'è lui. Però Marco, questa è l'obiezione che tanti hanno fatto, Massimo D'Alema ritualmente fa, dicendo noi stessi abbiamo sbagliato troppo ad andare dietro al leaderismo, al personalismo. Poi molti pensano sì, certo, perché da quando poi non sei tu a incarnare la pensi così, però molti pensano nel PD e nel centro-sinistra, a Repubblica per esempio, che questo è l'errore capitale, e seguire nella personalizzazione la politica. Io penso invece che ci sia davvero quello che lei dice, che non significa che spariscono i partiti, le grandi famiglie politiche, valori di riferimento, significa però che il rapporto personale e la credibilità personale nel saper tradurre promesse in fatti, questo per esempio è la grande forza dei sindaci eletti direttamente dalle città, che hanno avvicinato e reso concreto il livello di governo. È inutile dire di no, è la cosa che funziona di più, che funziona meglio, che fa più scaldare l'opinione pubblica rispetto al governo lontano, ed è così, ed è un bene che sia così. Quello non è un eccesso di personalizzazione. Io credo che la chiave di credibilità personale sia una cosa su cui continuare a puntare. Non è vero che i leader sono tutti uguali, sappiamo benissimo che nella storia della sinistra poi i leader erano frutto di accurate selezioni in stanze ristrettissime, e quindi questa cosa per cui non contavano le persone era una pietosa balla nei tempi del centralismo democratico. La pubblicità e poi torniamo con i nostri ospiti, le vostre telefonate e con il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Allora, ce l'abbiamo davvero alle spalle 10 anni di Berlusconi? Sì, Bassani dice di sì. Molti di voi ascoltatori dicono attento, perché tu credi che Casini cadrà nella trappola di Berlusconi. Fate una ragione, lui farà perdere almeno al Senato le elezioni, si fanno le elezioni anticipate a Berlusconi, e quindi sarà quello grazie al quale, più ancora che Fini, colui grazie al quale ci saremo liberati da Berlusconi. Liberati come? Vi faccio notare, se poi ci troviamo con un Parlamento di nuovo in cui non c'è una maggioranza, e a quel punto bisogna ricominciare da dove siamo oggi, credo sia per il PD sia per il centrodestra. Quindi liberare non so se ce ne siamo liberati, questo no. C'è un forte colpo alla forza del berlusconismo, questo è evidente, però che il fine di Casini sia quello di diventare leader di un'alleanza di cui il centro-sinistra e la sinistra sarebbe il pilastro più forte, mi dovete convincere, cari ascoltatori, perché secondo me non è quella la tendenza naturale. Comunque per Bersani sì, il berlusconismo è alle spalle. Questo non è la fine di un anno, qui siamo al passaggio di un decennio. Noi fra qualche giorno chiudiamo 10 anni, non un anno, i primi 10 anni del nuovo secolo. 10 anni politicamente caratterizzati da una democrazia personalizzata, il che pensi mi, 10 anni che facendo i conti ci hanno fatto precipitare in tutte le classifiche immaginabili e possibili. E sono classifiche che riguardano la vita reale degli italiani. Mi spiace che Berlusconi non voglia rispondere a chi anche gli avanza questi temi. Oh, naturalmente è una visione netta, piatta. In questi 10 anni il mio giudizio è che la responsabilità è assolutamente condivisa. Ieri sera, di fronte a un porta a porta in cui si chiedeva a Casini di dire i tagli lineari di Tremonti sono sbagliati, certo, e Paolo Mieli gli chiedeva bene, indicaci i tuoi, la risposta era che sono ministro dell'economia, e no, assolutamente no. Allora, quando si tratta di criticare, bene, quando si tratta di dire dove si taglia per abbassare le tasse, spariscono tutti, tranne parlare di sprechi, ovviamente, che come è noto sono sempre quelli indicati a casa delle amministrazioni che non si governano, ecco. Allora, detto tutto questo, abbiamo con noi il sindaco di Firenze e ricominciamo da lui la richiesta di opinioni intanto intorno al tema che era all'ordine del giorno della direzione che è saltata ieri, l'alleanza con Casini. Lei che ne pensa? Ma io penso che se il PD continua a inseguire le alleanze fuori dal proprio campo di azione e non si preoccupa di, invece di tirare fuori due o tre idee forti con le quali tornare a entusiasmare il proprio popolo, secondo me il PD è destinato a vivere di rincorsa e a perdere tutti gli appuntamenti. L'abbiamo visto con molta chiarezza in questa affannosa ricerca di un dialogo con il terzo polo, no? Addirittura per qualcuno il compagno Fini diventava una sorta di punto di riferimento straordinario. Io credo che non sia così, credo che il governo abbia sicuramente evidenti responsabilità, perché partono con 70 parlamentari di maggioranza e da 8 mesi stanno a litigare sui lanci di agenzia di Bocchino, per cui qualche problema ce lo devono avere. Se negli ultimi 8 mesi non abbiamo fatto altro che discutere delle questioni degli appartamenti offshore, delle ripicche personali e di tutto il resto, però noi non possiamo costantemente inseguire ciò che sta fuori da noi e probabilmente dovremo farci anche un po' di esame di coscienza. Ha ragione Bersani a dire che in questi 10 anni abbiamo perso delle occasioni, però la principale di queste l'abbiamo persa quando eravamo al governo e siamo stati dalla mattina alla sera a litigare tra un Turigliatto e un Dini, tra un Mastella e un Diliberto su che cosa fare. Dopo un anno e mezzo siamo andati a casa, quindi bisognerebbe avere il coraggio di fare un'analisi un pochino più seria e approfondita. Come si fa a evitare, secondo lei, che una natura eterogenea come sarebbe quella che dal sondaggio di Repubblica oggi riscuote comunque la stragrande maggioranza del favore sia tra gli elettori del solo PD sia tra gli elettori del centrosinistra, oggi l'ipotesi che raccoglie il 57 o il 58% dei sì e quella ha un amplissimo fronte anti-Berlusconi, una specie di lista civica nazionale o di liberazione nazionale, la chiamiamo come vogliamo, però questa è delle 3 indicazioni del sondaggio oggi di Repubblica quella che raccoglie più consensi. Non saremmo, le chiedo, Renzi, in quel caso classicamente di nuovo nella condizione di eterogeneità che è quella che lei indica come quella che poi agli occhi di tanta parte del paese ha detto beh, non posso certo più votare centrosinistra dopo la prova dei Turigliatto eccetera eccetera? Ma io non so se questi sondaggi siano attendibili o meno, io le dico gli umori della base e delle persone che incontro nella mia città, parlo ovviamente di quelli del mio partito, in questo caso più da dirigente politico che non da sindaco, espressione di un'intera comunità. Quando ci parli nessuno ha preclusioni a fare un tratto di strada con persone più, virgolette, moderate. Io stesso vengo da una cultura che non è certo la cultura della sinistra tradizionale e quindi non c'è nessun tipo di preclusione a ragionare con altre persone. Quello che è inaccettabile è un duplice aspetto. Il primo, quello di andare a inseguire chiunque stia contro Berlusconi. Per cui Fini, che per 16 anni ha fatto chip e chop con il Cavaliere, improvvisamente diventa il punto di riferimento per una sinistra che evidentemente è in crisi di identità. Mi perdoni, ma com'è possibile non ricordare tutte le giravolte intellettuali, culturali e politiche che Fini ha avuto in questi 20 anni? Io me lo ricordo quando nel 1990, insieme a Jean-Marie Le Pen, andava a visitare Saddam Hussein, allora sotto assedio dell'ONU. Ho le sue posizioni su, come dire, fortunatamente cambiate, non soltanto sulla storia italiana, ma anche sui diritti, sui valori, su alcuni dei punti centrali che dovrebbero caratterizzare la sinistra. Allora, non è accettato, secondo me, per come la vedo io, dalle persone della base del PD, l'idea di inseguire chiunque stia contro Berlusconi. Noi abbiamo l'ossessione di Berlusconi. Berlusconi è da 16 anni che lì io vorrei incalzarlo sulle cose che non ha fatto, non su una battaglia ideologica. Dall'altro lato la riflessione che nella base del PD in questo momento secondo me è molto più forte di quanto il gruppo dirigente pensi è che c'è qualcosa che non torna nella riproposizione stantia non soltanto delle stesse parole d'ordine ma anche delle stesse facce, degli stessi volti che hanno comunque accompagnato una parte del berlusconismo. Cioè berlusconismo e antiberlusconismo si tengono insieme, non è che tu puoi prendere l'uno e lasciare l'altro. Se in questi 16 anni Berlusconi ha potuto fare il bello e il cattivo tempo è anche perché dall'altra parte del campo non c'è stato chi sia stato in grado di in qualche modo incalzarlo e mandarlo a casa. Allora l'idea che noi continuiamo a lamentarci del berlusconismo con le solite parole d'ordine che andavano 16 o 17 anni fa secondo me è il segno di una difficoltà del PD. Io fossi Bersani smetterei di parlare di Berlusconi e del berlusconismo. Proverei e anche delle alleanze e dei ribaltoni di palazzo che, piaccia o non piaccia, non hanno funzionato. Perché poi c'è una cosa che ci insegna il 14 dicembre, è che la spallata non ha funzionato. C'è un SMS di un nostro ascoltatore che sembra scritto prima ancora che lei parlasse, ma in totale sintonia. Elettore del centrodestra deluso prega esponenti del centrosinistra tentare di convincerlo senza mai citargli una sola volta Berlusconi e l'anti-berlusconismo, ma con cose concrete. Lei è arrivato prima che lei parlasse. No, ma è così, perché guardi, io incontro tantissime persone che dicono: ma scusate, se davvero avete un giudizio negativo sul governo Berlusconi, ed è legittimo e comprensibile che uno si arrabbia, perché nonostante i libroni che possono essere inviati a casa, su tanti punti il governo ha fallito, ma perché non proviamo noi a rilanciare sui contenuti? Le faccio un esempio, voglio dire, per restare sull'attualità: la riforma Gelmini sull'università. Io avrei attaccato la riforma Gelmini non su una posizione di conservatorismo, ma su una posizione diversa, nel dire: la Gelmini è stata troppo prudente. È mai possibile che oggi l'università italiana... Renzi, come... lei lo sa che io in ginocchio le dico che ha ragione. Naturalmente lei sa che a quel punto significa avere contro i sindacati, però, perché su questo lei... La preoccupazione di aver contro i sindacati sinceramente non sta proprio nella top ten delle mie... Lo so, però questo conta poi per leadership e... La sinistra ha sempre contato. Io su questo mi piacerebbe che un giorno si potesse fare un'analisi serena e seria sulla crisi della rappresentanza, non solo dei partiti, perché anche per gli opinionisti e per i commentatori è molto facile giustamente contestare un dato di fatto. Credo che lei abbia ragione, un dato di fatto, cioè che i partiti politici sono in crisi di rappresentanza, e non si può negare questo, via, non è più come 30 anni fa che un partito politico manca poco trovava. C'è una crisi della rappresentanza da Confindustria, lo dico da proprio Confindustria, adesso non sto parlando di Emma Marcegaglia, però se uno conosce a livello territoriale e con commercio CNA, cioè la rappresentanza in Italia è un problema, nelle professioni, negli ordini, non ne parlo, ecco, di quello io sono d'accordo con lei, c'è lei, davvero. Lei vada nelle aziende, io faccio il sindaco e vado ovviamente a girare nelle aziende o nelle botteghe artigiane dell'Oltrarno di Firenze o in altri luoghi dove come dire, si tocca con mano l'economia, un'economia tradizionale da un lato ma anche molto innovativa. Queste persone non sono rappresentate dalle proprie associazioni di categoria, e allo stesso modo non può essere un sindacato che è fatto per la maggioranza da pensionati a incrociare, come posso dire, i sogni e i destini della nuova generazione, molto spesso legato a una flessibilità o a un precariato, che comunque non trova nessun tipo di difesa di un sindacato che sta sulla difensiva quasi dappertutto. Allora, insomma, per farla breve, io non voglio dire che noi dobbiamo per forza fare polemica su tutto, ma scegliere alcuni temi sui quali il governo e l'esperienza del centrodestra ha fallito è molto importante per provare a rilanciare su argomenti concreti. È chiaro che bisogna anche deporre un certo atteggiamento tipico della sinistra, che è quello dell'odio ideologico o della ostilità ideologica verso chi ha votato in un altro modo. Cioè, a me mi accusano di voler tentare di prendere i voti di quelli dell'altra parte. Siccome l'ultima volta abbiamo perso, o prendi i voti anche di quelli dell'altra parte o non rivinci, cioè è un semplice calcolo matematico. Allora, non è che chi ha votato Berlusconi una volta deve essere macchiato, come posso dire, con l'onta della disgrazia e in qualche misura del anzi, bisognerebbe tentare di sedurlo e convincerlo. Ecco. Ma non c'è dubbio che il gioco democratico è che ci sarà sempre un 30% che è inconvincibile sta a destra, un 30% che è inconvincibile sta a sinistra, ma la sinistra credibile non è quella che annacqua se stessa e rinuncia ai valori inseguendo fini, non è quella che gioca a fare gli inciuci di palazzo perché sa che non vinceremo mai, è quella che dice: noi siamo noi stessi e siamo consapevoli di quello che siamo, però su determinate questioni possiamo portarle con noi. Allora, sono scaduti i 10 minuti che io ho contrattato per lei, perché io avevo una minaccia da parte del colonnello, cioè di sua moglie, perché se sono più di 10 minuti lei dice che poi si vendicherà su di lei, perché lei adesso ha degli obblighi familiari, quindi io ottempero questa cosa rivelando a tutto il mondo che anche lei è una persona concreta, c'ha una moglie che dice che lei lavora troppo, e a questo punto io la restituisco obbligatoriamente senza le dare della parola, anche perché poi io non vorrei mai, tra moglie e marito, non mettere il dito, questa è la mia idea. Cavoli vostri che ce le avete, perché io questa bella avventura di averne una purtroppo non ce l'ho e sono qua che mi lamento, però beati voi. Ora chiedo a Valdo Spini, nel suo libro lei in realtà nel descrivere la Bolognina oggi non è che si risparmi i giudizi su quelle personalità dietro le quinte che diceva prima Pasquino, continuano a rappresentare magna pars di queste scelte e non scelte, i D'Alema, i Veltroni, eccetera eccetera. La sua opinione è: rispetto a chi chiede il rinnovamento e dice ma vi volete fare un passo indietro, è che si tratti di un eccesso di richiesta, i leader ci sono sempre stati, i punti di riferimento di chi sta insieme a loro nelle aree territoriali sono insomma poi anche le spine dorsali dei partiti nel medio-lungo periodo, oppure le scelte personali al di là di tutto hanno davvero contato tanto e troppo in questi anni e negli errori del PD? Le scelte personali contano evidentemente. Ora Renzi la mette dal punto di vista generazionale, io la metto dal punto di vista politico, cioè delle scelte che si è chiamati a fare e che potrebbero, qui cito Pasquino, le scelte politiche adeguate potrebbero consentire anche di mettere insieme le personalità che fanno richiamo ai vari aspetti del mondo politico di oggi, dal nord Chiamparino appunto alla sinistra Vendola al rinnovamento Renzi. Pongo questo problema politico, io mi domando questo: ieri tutti i fari dell'attenzione erano sulla conferenza stampa di Berlusconi, ma sbaglio o due fatti come la Fiat, l'accordo Fiat e lo stesso passaggio della riforma Gelmini forse inseriscono e influiscono sulla struttura italiana più di quello che è stato il batti e ribatti fra Berlusconi e Bersani? Sono assolutamente convinto che hanno contato più questi fatti strutturali. Allora, se ho in comune appunto con altri questo aspetto di rinnovamento, però ho anche, diciamo così, credo l'orgoglio di porre il problema dal punto di vista politico. E porre dal punto di vista politico significa questo: noi abbiamo il problema di un riformismo rigoroso che possa assicurare all'Italia un sentiero di crescita in una situazione socialmente condivisa, e se diamo questa speranza riconquistiamo anche i voti che sono andati al centrodestra. Imitando Berlusconi, questi voti che sono andati al centrodestra non li riconquistiamo certo. Il problema vero è se siamo in grado di fare questa alternativa. Dovessi dare un consiglio, non richiesto, a Bersani, è di fare appunto una costituente che riapra con forza il discorso del Partito Democratico e che abbia al centro alcune indicazioni programmatiche che possano smuovere la società. Altrimenti assisteremo a questo strano spettacolo per cui sia Bersani che Berlusconi invocano Casini, il quale si tiene ovviamente riservato aspettando di vedere come vanno le cose, ma in una situazione di questo genere, se poi a livello parlamentare si vota continuamente diverso, credo che la sinistra si indebolisca ancora. Sono d'accordissimo che ieri comunque rispetto alle conferenze stampa la scelta nei Mirafiori, e ripeto, il giudizio di Chiumparino è un giudizio coraggioso come sempre, poi gliela fanno pagare ma è coraggioso, però ha ragione Spini, Mirafiori e il disegno di legge Gelmini sono cose concrete. Ora l'attuazione, coi tanti decreti di attuazione del disegno di legge Gelmini, sarà una nuova prova, e questo disegno di legge fa cambiare alcune cose e temo che le faccia cambiare in maniera che non sono né come sono descritte da una parte né dall'altra. Io non mi nascondo che sono per una forte discontinuità nella formazione italiana. Penso che abbiamo la responsabilità di aver fatto ripetere ai giovani ciò che i giovani da una parte sono legittimati a pensare per il furto del loro futuro, ma dall'altra sentirli dire le cose che ho sentito in queste settimane un po' mi fa grattare la testa per quello che io devo dire all'università di fronte ai miei studenti. Detto tutto questo, abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, sentiamo qualche telefonata, cominciamo con Renato che ci chiama da Arezzo. Prego Renato, che pensa? Sì, buongiorno. Volevo dire che secondo me in Italia ci sono due drammi. Uno è il governo Berlusconi e l'altro è il Partito Democratico. Perché anche il Partito Democratico? Perché si è votato in tutta Europa e alcuni partiti di centro-sinistra hanno recuperato alcune percentuali di voto. Il Partito Democratico non riesce questo a recuperare nemmeno in quel 40% di indecisi che sembra che i sondaggi stiano dando in questo momento. Io mi sente? Sì, sì. Io credo che ci sia una mancanza di proposte serie. Ad esempio Franceschini all'inizio della legislatura iniziò a parlare di un assegno di sostenibilità a chi perdeva il posto di lavoro, un aiuto alle famiglie, queste cose qui. Ora, negli ultimi dibattiti non ho sentito dire. Il Partito Democratico, secondo me, difette rispetto al PDL, al centrodestra, che al leader del centrodestra gli perdonano tutto, anche le cose più gravi personali che gli succedono. mentre di qua al loro leader c'ha sempre quelle 3 o 4 o 5 persone che lo criticano in continuazione. Comunque noi tentiamo, abbiamo fatto ancora 3 giorni fa con Stefano Fassina, tentiamo di dare conto anche delle proposte concrete, quelle sul fisco, per esempio abbiamo parlato una trasmissione intera su questo, quindi noi tentiamo di non parlare solo di alleanze e questioni di leader. Il problema è che sono spesso i leader del PD che la mettono sulle alleanze e sugli aspetti personali. Sentiamo ancora Ettore che ci chiama da Milano, prego. Buongiorno. Io parlando di Partito Democratico, non mi posso nascondere, io sono nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Beh, è meglio, una voce autorevole. E quindi mi chiamo Martinelli, quindi sono di parte, ecco, le faccio questa premessa per dire che purtroppo a volte noi caschiamo, evidentemente, probabilmente sarà anche dilettantismo, in quella che è l'agenda che ci viene dettata dai giornali, da quella che ci viene dettata dalla destra. Lei ha ragione quando si dice che bisogna fermarsi sui contenuti, però vede, se io faccio un'intervista da rottamatore o contro Bersani, mi danno la quinta pagina di Repubblica. Se parlo di diritti civili o di quello che sta accadendo in Bielorussia, non poche persone se ne interessano. Io faccio l'esempio della Bielorussia perché, come lei sa, in questi giorni ci sono centinaia di persone che sono in galera. Siamo in Europa, siamo a due passi. Ebbene, un richiamo agli amici di questo dittatore, fra cui per esempio c'è anche il nostro premier Berlusconi, perché in qualche modo gli dica di lasciare liberi coloro che hanno manifestato un dissenso, sarebbe interessante. Se vengo sul, ho ascoltato le parole di Renzi, per venire ai contenuti, io ho detto polemicamente che per fare un'eventuale alleanza con Fini, ho fatto una critica a D'Alema dicendo che probabilmente è più facile spiegarle in Puglia alcune alleanze che non nell'Appennino tosco-emiliano, però quello che mi sento di dire è che se Fini è d'accordo sul diritto di voto agli immigrati, non posso divenire io contrario se quella era la mia posizione. Se Fini è d'accordo sul testamento biologico, non posso dire che ora le mie posizioni divengono quelle della Binetti perché Fini ha cambiato posizione. Poi anch'io mi ricordo tante cose di Fini. Io credo che la sinistra e il Partito Democratico avrebbero dovuto chiedere le dimissioni di Fini da Presidente della Camera già qualche mese fa, perché è l'unico caso che si ricorda nella Repubblica Italiana di un Presidente della Camera che fa il leader di un partito. E io su questo devo dirle che mi sembra corretto questa sua osservazione, perché un domani, ora al di là del fatto che all'opposizione del governo Berlusconi questa cosa può legittimamente tornare utile, ma un domani questo precedente si riverbererà contro chiunque, perché accrescerà l'utilizzo personale. Non lo dico per giudicare l'onorevole Fini né per difendere la maggioranza, che chiunque mi ascolti sa sono molto critico delle promesse non mantenute. Il punto è che poiché nel nostro ordinamento non c'è una rispondenza di chi elegge un presidente della Camera e del Senato rispetto al prosieguo del mandato, e quindi io ne faccio una questione ordinamentale, quello che è avvenuto, e che secondo me ha ragione Ettore a dire, a ricordare a tutti, non ha precedenti, inevitabilmente accrescerà la propensione dei leader politici che diventeranno presidente di Camera e Senato d'ora in poi a un utilizzo ancor più accentuatamente personale, invocando questo precedente. E questo, secondo me, essendo posizioni istituzionali delicate per l'agenda parlamentare e anche per le funzioni sussidiarie che la Costituzione dà loro, in particolare al Presidente del Senato, secondo me è molto delicato. Pasquino, le chiedo, dovesse lei fare oggi una scommessa rispetto alla confusione attuale, ai tempi di una legislatura comunque azzoppata, inutile che ci illudiamo, che cosa trascinerà di più? La necessità, il PD, verso un'alleanza con questo terzo polo, oppure una scommessa più lontana a costo magari di mettere anche in conto di non riuscire subito a trovare il leader vincente, ma di porre una premessa per emendarsi da quegli errori che lei ci ricordava? Prima vorrei dire una cosa sulla presidenza della Camera, perché quello che conta in realtà è scegliere un presidente che non sia il capo di un partito. Oh, sì. Perché se uno sceglie Casini, poi l'altro sceglie Verdinotti e la terza volta si sceglie Fini, il problema è nella scelta, ha ragione. Nel manico. Si possono scegliere uomini e donne autorevoli che sono indipendenti e che sanno fare i loro lavori in maniera imparziale. Ci ho detto fino adesso come Presidente della Camera è stato imparziale, però certo la contraddizione tra il Presidente della Camera e il capo ovvio e il Presidente di Futuro Libertà è in un certo senso plateale, flagrante. che cosa deve fare il Partito Democratico? Tanto per cominciare vorrei dire a Ettore che non deve pensare che tutto quello che fa deve andare in quinta pagina o in prima pagina. La comunicazione, un partito deve saperla organizzare per conto suo, guidare, governare, deve essere in grado di comunicare alle persone che vuole raggiungere e prevalentemente quelle che già non la pensano come lui, che invece il partito purtroppo destina un sacco di energia a fare le famose iniziative dove ci sono i compagni o gli amici o come si chiamano, deve invece andare, come si dice, in partibus infidelium, a spiegare a coloro che non la pensano come lui così quello che vorrebbero fare. Dopodiché la strategia non può che essere di lungo termine, cioè continuare a pensare che ci sarà una spallata o addirittura che è finito Berlusconi ed è finito il berlusconismo domani mattina o dopodomani o il 13 gennaio, il giorno in cui è stata spostata la direzione del PD, è un errore. Cioè questa è una legislatura nella quale il partito ha perso e doveva organizzarsi in maniera diversa e deve sapere che questa organizzazione richiede del tempo e richiede anche trovare delle persone che siano, come dire, più capaci, perché è chiaro che la classe politica complessiva del Partito Democratico è giunta, lei sì al capolinea, lei sì al capolinea, e bisogna dunque sostituirla, naturalmente non tutti, è ovvio, e magari scegliendo con il merito, selezionando persone, per esempio a cominciare dai parlamentari, che non siano poi quelli che primo non sanno fare il loro lavoro e qualche volta sbagliano a votare, e in secondo luogo sono predisposti o disponibili a anche andare dall'altra parte. Mi sembra che questa conclusione di Gianfranco Pasquino, che io sposo all'85%, mi sembra proprio di buon senso. Fossi un dirigente del PD, devo dire, condividerei, e soprattutto ricordo anche quello che Pasquino ha detto al termine del suo primo intervento, quando ha voluto fare l'ecumenico perché domani è Natale, e cioè la somma delle posizioni, le proposte, le suggestioni, dei metodi che Chiamparino come sindaco di Torino rappresenta per la questione del Nord, che il sindaco di Firenze Renzi rappresenta per la novità, l'innovazione rispetto alle classi dirigenti, e Vendola rappresenta per quello che Valdo Spini, secondo me, in questo suo libro fa benissimo a richiamare con questa idea del costituente che guarda a sinistra. Ecco, allora queste tre cose secondo me sono tre frutti che bisogna tentare di trasformare in semi perché poi ne vengano fuori piante, altrimenti se prevale la questione personale e se prevale l'inginocchiamento al centro io faccio i miei auguri, ma mi sembra una questione invece di breve periodo. Bene, io ringrazio Valdo Spini, ringrazio Gianfranco Pasquini e ringrazio il sindaco di Renzi, spero di non averlo fatto litigare con la moglie, ringrazio voi tutti e beh, a questo punto non mi resta che dirvi buon Natale e tra una parola di troppo e un piatto di troppo, domani fate una parola di troppo, che sia una parola buona per tutti coloro a cui non l'avete rivolta, e mettete mano al portafoglio, c'è di sicuro qualcosa che potete fare per chi ha bisogno, fatelo davvero, perché vi garantisco che serve, e serve tutto l'anno, sì, però per chi non lo fa tutto l'anno serve anche a Natale, meglio una volta l'anno che mai. Grazie, a lunedì. Mm-hmm.